Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Sulle perdite degli acquedotti circolano cifre a volte decisamente sconfortanti, altre volte gonfiate da un computo che non distingue le perdite dai furti d'acqua. Di sicuro queste perdite degli acquedotti sono una delle metafore più usate dei vizi italici. E tuttavia, insomma, questa sera noi parliamo di una italicissima startup che si chiama Neptune, che ha sviluppato una tecnologia che riesce a individuare da satellite proprio le perdite d'acqua, permettendo a chi deve riparare le condutture danneggiate di andare a colpo sicuro. Considerate che oggi, a meno che gli acquedotti siano dotati di sensori posizionati lungo tutta la rete di condutture, anche la sola individuazione delle perdite richiede delle indagini complicate, a volte anche invasive, che spiegano perché si intervenga così poco. Ma diamo il benvenuto a Riccardo Marchetto, che è cofondatore e amministratore della Neptune SRL. Buonasera. Buonasera dottor Melis, buonasera a tutti. Allora, voi che praticamente avete reinventato il mestiere del rabdomante, lo avete fatto più o meno questo nel 2009, lì è partita l'idea, l'ESA vi ha premiato con un finanziamento ed una incubazione presso il suo gateway italiano, che è il Business Innovation Center Lazio di Roma. Siete una startup innovativa. Allora Marchetto, come funziona questo vostro sistema di rilevamento satellitare? L'applicazione di Neptune si basa sul fatto che tramite alcuni satelliti è possibile determinare la soil moisture, ossia l'umidità presente nel sottosuolo. Questo avviene perché i satelliti radar inviano continuamente delle onde verso terra e l'onda riflessa viene modificata dal materiale che incontra. Abbiamo quindi pensato che se tramite un'analisi dell'immagine satellitare facevamo una sovrapposizione della rete idrica, sì, riuscivamo a identificare quelle zone di alta umidità che coincidono anche col passaggio delle tubature dell'acqua sostanzialmente, esatto, no? Dando praticamente una elevata probabilità di perdita in quel punto. Ecco, quello che si vede sono delle mappe in falsi colori con come dei pennacchi, no? Delle piumette che escono in corrispondenza di alcuni punti delle linee di acquedotto. Esattamente. Perfetto, e lì voi riuscite a beccare, ecco, che tipo di perdite? In un paio d'anni di attività noi abbiamo uno storico che va dai 0,5 litri al secondo fino ai 3 litri al secondo. Più grandi diventano, non sono più occulti, ma diventano visibili. Cioè, si fanno notare da sole, a un certo punto. C'è un geyser che sbuca dal terreno e dice, si nota, non c'è bisogno. E più piccole? Più piccole non si sa, vi sono comunque dei disturbi che rendono comunque difficile l'individuazione anche con le tecnologie standard. Per cui diciamo il nostro minimo è di quel mezzo litro al secondo. D'accordo. Senta, quali sono i vantaggi di questo approccio, di questa tecnica che usa dati satellitari rispetto alle tecniche più diffuse, insomma, oggi utilizzate? Sicuramente il vantaggio principale è la velocità, in quanto con le tecnologie standard si appoggiano sul principio acustico ed elettroacustico. Okay. E quindi riescono ad analizzare 5-6 km al giorno per operatore. Cioè ci sono già dei sensori dappertutto dentro le tubature, oppure bisogna seguirle con una specie di metal detector, solo che invece di un microfono tarato sul rumore del fischio dell'acqua. Perfetto. Quando esce dalla tubatura. Perfetto. Noi con la nostra tecnologia riusciamo anche ad arrivare ai 50 km al giorno, al di là che vi è comunque un'analisi tramite PC che arriva anche a migliaia di chilometri, certo, al giorno. Certo, e tra l'altro voi vedete le perdite anche dei punti di acquedotto non mappati, perché questo succede spesso, gli acquedotti sono infrastrutture a volte, no, addirittura con secoli. Esatto, noi abbiamo pensato anche a questa cosa qui, praticamente dove rileviamo dei punti di umidità che combaciano con altri punti di umidità vicino all'acquedotto, abbiamo pensato che anche lì possano esservi strutture di acquedottistiche dimenticate lungo il tempo. Ecco, cosa che appunto succede piuttosto spesso. Invece dove fate fatica a vedere le perdite? Allora, sicuramente vi è un fenomeno chiamato shadowing, dato dall'alta urbanizzazione. Sì. Ossia, il satellite non è mai perpendicolare al terreno, quindi quella leggera inclinazione va a battere, diciamo così, contro i grattacieli o comunque altre strutture, si crea un cono d'ombra sul quale è difficile l'investigazione. Cioè, voi dovete, praticamente il satellite illumina con delle onde radio il terreno, solo che se ci sono troppi edifici alti alle spalle di questi edifici si creano delle ombre, lì le onde radio non arrivano e non riuscite quindi a raccogliere il dato. Esatto, è proprio così. Noi stiamo cercando comunque di migliorare questo approccio acquisendo più immagini, facendo quindi una sequenza multitemporale che riesca ad illuminare gli edifici sia da un lato che dall'altro. Con diverse angolature sostanzialmente. Esattamente. Ecco, i prossimi sviluppi dal punto di vista tecnologico? Allora, sicuramente noi entro fine anno vorremmo dare una previsione della perdita in litri al secondo o litri giorno. Da satellite, ok. Da satellite, esatto. L'altra cosa più interessante, stiamo sviluppando un'applicazione, un sistema mobile che permetta di fornire i punti direttamente agli operatori. Quindi l'operatore va lì a verificare il punto secondo un percorso che è il migliore calcolato. Cioè segue con questo smartphone sostanzialmente, va in giro alla ricerca delle perdite, se ho capito. Esatto. E per quello dicevo che avete reinventato il mestiere del rabdomante. Solo che si capovolge completamente la tecnologia, nel senso che una volta il rabdomante cercava la perdita e la trovava e avvisava che aveva trovato in via Garibaldi 37. Qui è il contrario, siamo noi, sì, che diciamo l'operatore va in via Garibaldi 37 e troverai lì la perdita. Siete un rabdomante spaziale, va bene. Grazie a Riccardo grazie Marchetto. Grazie a tutti voi, arrivederci, salve. Ci fermiamo qui, appuntamento domani.